Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Comunque è difficile perché alla fine è una cosa che dovrò superare io, per quanto posso avere gli interventi e potrò migliorare il mio aspetto estetico, è una cosa interiore che io dovrò superare, nonostante sto facendo dei sacrifici enormi tutti i giorni, perché guardarsi allo specchio e non riconoscersi è la cosa più difficile da superare, da affrontare ogni mattina. Avete sentito, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che messaggio in una giornata come questa, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne? Questa che avete sentito parlare Carla Cagliazzo, è la donna che, a cui l'ex fidanzato ha dato fuoco, mentre tra l'altro era anche incinta di 8 mesi, ha dato fuoco e l'ha praticamente sfregiata. È stato condannato 2 giorni fa a 18 anni, però devono passare i vari gradi, capire anche se questa sentenza viene poi confermata anche in Cassazione, e in più si faceva il conto qualche sera fa, potrebbe uscire già dopo 9 anni, in semilibertà quantomeno. Questo comunque era il messaggio di Carla Cagliazzo, che diceva una delle cose peggiori è proprio guardarsi ogni mattina e non riconoscersi. Oggi ha partecipato a una delle tante iniziative che ci sono state in Italia. Poi ne parleremo, così come parleremo, faremo anche, essendo venerdì, il punto della politica della settimana, e naturalmente dovremo concentrarci anche sul maltempo, perché è imperversa, continua a esserci l'allerta rossa, soprattutto nel nord, ma si sta spostando anche verso sud il cattivo tempo. Intanto, per la vostra, le vostre interazioni qui a Effetto Notte, anche quest'ultimo giorno della settimana per Effetto Notte, sempre la pagina Facebook del programma, Sava Sandir, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Molti gli argomenti questa sera, ma intanto, come sempre nella prima parte, un riassunto della giornata che è stata. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente Mattarella parla di una ferita all'intera società, il Papa scrive Dio vuole donne libere e la presidente della Camera Boldrini pubblica i messaggi e i nomi di chi la insulta in rete. Maltempo resta l'allerta, anche se il tempo va migliorando, danni pesanti in Piemonte e Liguria, sotto l'acqua anche Calabria e Sicilia. Pubblica amministrazione, la Consulta boccia una parte della riforma Madia poiché viola l'autonomia delle regioni. La manovra economica, la Camera vota la fiducia, saltano 50 milioni per l'emergenza sanitaria di Taranto. Tensione tra Unione Europea e Turchia, Erdogan minaccia, aprirò le frontiere ai migranti, Berlino cerca di mediare dicendo l'accordo sui profughi è un successo comune. Black Friday scatta la febbre degli acquisti anche in Italia, ossigeno per il commercio. Partiamo quindi da ciò che appunto si celebra oggi, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, manifestazioni, dibattiti, convegni che hanno caratterizzato in tutta Italia questa giornata, una piaga ancora aperta, una ferita all'intera società, così ha ricordato questa giornata il presidente Mattarella, la violenza sulle donne. Il presidente del Consiglio Renzi ha detto quello della lotta contro la violenza sulle donne è un tema fondamentale, imprescindibile, culturale, sociale e politico. Il Papa ha detto quante donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, il Signore le vuole libere e in piena dignità. E domani c'è la grande manifestazione a Roma che si intitola Non una di meno. Le parole del Papa in un tweet: il Signore vuole donne libere e in piena dignità. La denuncia shock della presidente della Camera Boldrini, che ha scelto proprio la giornata contro la violenza sulle donne per pubblicare i nomi di chi la aggredisce sul web. Decine e decine di messaggi offensivi fotografati e postati sulla sua pagina Facebook, con nomi e cognomi di uomini e di donne, a riprova della volgarità e dell'indecenza dei tanti inutili aggressori professionisti in rete. Domani le donne scendono in piazza a Roma, appuntamento alle 14 in piazza Esedra, manifestazione con un messaggio chiaro già dal titolo, non una di meno, ci ha raccontato Sara Picchi, operatrice dello sportello antiviolenza, una stanza tutta per sé. Già nel titolo c'è un messaggio, direi, delle battaglie femministe su scala internazionale, lo slogan non una di meno infatti nasce in Argentina e su cui un movimento femminista si è unito contro il femminicidio. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra le iniziative di oggi un incontro organizzato a Napoli dal Sindacato Unitario Giornalisti Campania e dall'Ordine Giornalisti, durante il quale avete sentito all'inizio Carla Cagliazzo, la donna di 38 anni data alle fiamme dall'ex fidanzato Paolo Pietro Paolo scorso 1 febbraio a Pozzuoli, quando era all'ottavo mese di gravidanza, ha parlato della sua identità rubata, ha anche chiesto aiuto alle istituzioni, che dice finora assenti. Sentiamone un altro pezzo. Non ho avuto il supporto di nessuno, cioè né dalla regione né da nessun ente che ha questa competenza, assolutamente, guadagna e spende, però i costi sono abbastanza aspi, quindi sto facendo anche questo sacrificio, questo sforzo. Quindi, è vero, sono cicatrici cancellabili e forse mai potranno andare via, però se avessi un supporto economico forse per me sarebbe più semplice superare questa cosa. Io ho bisogno di un sostegno economico, davvero, perché secondo me è inverosimile che devono organizzare una cena di beneficenza ai miei concittadini e chi sta a capo non prende un'iniziativa del genere. È veramente abbastanza sconfortante. E lì era presente la nostra Laura Viggiano, ha raccolto lei questa telefonata perché Carla Cagliazzo ancora non si sente di apparire in pubblico. Laura, buonasera. Sì, buonasera, infatti Carla ancora non riesce ad affrontare insomma il rapporto con il pubblico, però la sua denuncia dal tono pacato, ma comunque una denuncia secca, insomma hanno promesso tanto ma non è arrivato niente, è riferito alla regione e alle istituzioni che dovrebbero supportarla nel cammino che prevede altre 25 operazioni, oltre alle 21 già eseguite. Carla Cagliazzo sfigurata non solo in volto dalle fiamme appiccate dall'ex compagno, sostanzialmente mette in evidenza un mondo, una realtà che dovrà essere affrontata in qualche modo, perché manca ancora e comunque è impreparata la rete del sistema pubblico ad affrontare tragedie come queste, anche perché è complicato anche poter pensare che interventi che una donna appunto sfigurata deve subire, come in questo caso, possano essere ritenuti puramente estetici. Grazie Laura Viggiano da Napoli e grazie anche di questa telefonata di Carla Cagliazzo che ci ha fornito, come diceva, avete sentito all'inizio, guardarsi allo specchio e non riconoscersi è la cosa più difficile da affrontare. Torneremo a parlarne dopo, adesso ci occupiamo del maltempo perché resta l'allerta, come diceva, anche se il tempo va migliorando. Alle 18 di questo pomeriggio la Protezione Civile ha diffuso il bollettino per le zone interessate dal maltempo, allerta rossa per le piogge sulla bassa pianura occidentale in Lombardia, su alcune zone del Piemonte, sulla pianura settentrionale e sulla pianura torinese. Per domani ancora allerta rossa per la pioggia sulla bassa pianura occidentale in Lombardia e sulla pianura di Piacenza-Parma in Emilia-Romagna. Poi torneremo a parlare di Piemonte in Liguria, ci collegheremo con le due regioni. E questa mattina a Torino, dove la situazione resta difficile, è arrivato anche il Presidente del Consiglio. Un incontro al mattino con il Presidente del Piemonte Sergio Chiamparino e la Sindaca di Torino Chiara Appendino. Poi una conferenza stampa per fare il punto nella sede della Protezione Civile regionale. La prima parte dell'emergenza è stata gestita in maniera brillante, sottolinea Matteo Renzi. Il Piemonte ha fatto un buon lavoro su argini e alvei dei fiumi e questo ha permesso di mitigare i danni rispetto all'alluvione del 1994. Ora il Governo, aggiunge Renzi, si muoverà in fretta per riconoscere lo stato di calamità e fare in modo che si intervenga finita l'emergenza e la conta dei danni. Non è ancora terminata, ma possiamo dire che la prima fase dell'emergenza è stata gestita splendidamente da parte della Protezione Civile piemontese. L'allerta nel torinese è scesa a livello 2. In città resta critica la situazione dei fiumi, il Po e la Dora, con numerosi ponti chiusi durante tutta la giornata per precauzione. La violenza della piena ha trascinato contro uno dei ponti principali nel centro di Torino e due battelli in uso per la navigazione del fiume. Più tardi, durante le operazioni di recupero, uno dei battelli si è rovesciato ed è stato trasportato via dalla corrente. Situazione critica a Moncalieri, alle porte di Torino, dove un torrente ha esondato violentemente, lasciando isolate per ore centinaia di persone. Ancora difficili le condizioni nelle frazioni isolate delle zone montane. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E il bollettino della Protezione Civile riguarda anche la Calabria e la Sicilia. Allerta rossa per rischio idrogeologico sia oggi che domani. Allagamenti e smottamenti si registrano nella Locride e nel Crotonese a causa del maltempo che non dà tregua da ormai 24 ore. Nello Ionio Regino isolate alcune frazioni di Careri e scuole chiuse a Reggio Calabria e in diversi centri della provincia, anche a causa dei problemi nei trasporti. Sono infatti impraticabili diverse strade provinciali. A Reggio, per il forte vento, chiuse anche le strade alberate e alcuni parchi. Interrotto il traffico ferroviario tra Bianco e Ferruzzano a causa di uno smottamento che ha interessato la massicciata della ferrovia. Nel Crotonese a Strongoli è stata emessa un'ordinanza di evacuazione di 10 nuclei familiari. A Santa Severina, nel centro storico, è crollato un muro, per fortuna senza danni alle persone. Esondati alcuni torrenti e chiusi diversi tratti di strade. Il maltempo sta battendo anche la Sicilia. A causa delle ingenti precipitazioni, nell'Agrigentino è stato chiuso un tratto della statale 115 sud-occidentale Sicula, tra Sciacca e Ribera, per allagamenti. Detri detriti sono segnalati su diverse altre strade per lo straripamento di alcuni corsi d'acqua che hanno anche invaso i centri abitati. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E c'è da segnalare che un allevatore in Sicilia, un allevatore di 60 anni, risulta disperso a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove per l'intera giornata ci sono state alluvioni, frane che hanno colpito buona parte del territorio di Agrigento. Al momento le ricerche di Vincenzo Bono sono state interrotte. Pubblica amministrazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riforma Madia sulla pubblica amministrazione nella parte in cui prevede che l'attuazione della stessa riforma attraverso i decreti legislativi possa avvenire con il semplice parere della conferenza Stato-Regioni o unificata. Serve, dice invece, la consulta prima l'intesa con le regioni. Procede intanto il percorso della manovra. Oggi la Camera ha votato la fiducia chiesta dal Governo. La manovra supera il voto di fiducia alla Camera con 348 sì e 144 no. Archiviato lo scontato via libera, ora la legge di bilancio da oltre 26 miliardi sarà approvata definitivamente da Montecitorio entro lunedì per poi passare all'esame del Senato. Con il voto di fiducia il Governo ha incassato il consenso sui ritocchi alla manovra fatti in commissione bilancio. Tra le novità più rilevanti ci sono l'ampliamento della platea per l'ottava salvaguardia degli esodati e per opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione prima con un assegno interamente contributivo. Sì anche alla facoltà di concordare sconti fiscali per aziende in fallimento e all'incremento del fondo per la povertà. Polemiche invece sullo stop del governo per problemi di copertura ai 50 milioni da destinare all'emergenza sanitaria causata dall'inquinamento a Taranto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Continua intanto il dibattito in merito al referendum sulle modifiche alla Costituzione. Confronto politico che continua ad animarsi più per le accuse reciproche tra gli schieramenti e per gli scenari post-voto che per i contenuti. Questa campagna ha assunto toni insopportabili e pessima, dice la presidente della Camera Boldrini. Questi toni non incoraggiano al voto, allontanano gli elettori. A questi ultimi intanto il presidente del Consiglio Renzi ricorda: nel fronte del no ci sono 5 ex premier che per anni ci hanno detto delle riforme e non le hanno fatte. Quanto al 5 dicembre, spiega Renzi, se vince il no, Berlusconi al tavolo del confronto troverà Grillo e D'Alema e non me. La riforma darà stabilità al paese, rivendica invece il capogruppo PD alla Camera, Rosato. Rafforza le garanzie democratiche, rende il paese e le istituzioni più moderne ed efficienti. Riforme da bocciare per il Movimento 5 Stelle, che domani sarà in piazza a Roma. Portate il simbolo del tricolore, dice Grillo. La Ruocco aggiunge: questa riforma distrugge la Costituzione e elimina i diritti per i cittadini. Renzi come la Clinton, appoggiato da finanzieri e lobbisti, dice Salvini. Spero finisca nello stesso modo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo della tensione tra Unione Europea e Turchia. Il presidente turco Erdogan ha minacciato di riaprire i confini ai migranti illegali in risposta al veto di ieri, non vincolante, con cui l'Europarlamento ha chiesto alla Commissione Europea di congelare i negoziati per l'ingresso di Ankara nell'Unione. Intanto in Bulgaria è scoppiata la rivolta in un centro di accoglienza, in Grecia un incendio in un campo profughi ha provocato due vittime, quindi come sempre l'emergenza immigrazione è presente. In Marocco questa notizia, il processo di due minorenne accusate, due ragazzine, della magistratura marocchina di omosessualità, ve ne avevo parlato nei giorni scorsi, ha preso il via oggi. Questo processo a Marrakech proseguirà fino al 9 dicembre. Le due ragazze di 16 e 17 anni sono state convocate oggi da un giudice in prima mattinata. Le due ragazze sono state arrestate il 28 ottobre su denuncia di una delle due famiglie dopo essere state sorprese sul tetto di una casa mentre si baciavano e si abbracciavano. Pensate, questo processo in Marocco a due ragazzine. Poi, per chiudere, un po' di alleggerimento. Black Friday, il venerdì nero negli Stati Uniti, è una lunga tradizione. Le stime parlano di un venerdì da record in America, con vendite che superano i 3 miliardi di dollari, con un incremento dell'11,5% rispetto allo scorso anno. L'Italia non è da meno, anche se più moderatamente. Secondo Confesercenti l'aumento di clienti è del 50% e l'incremento delle vendite tra il 10 e il 25% rispetto a un venerdì tipo. Un sospiro di sollievo quindi per i commercianti, che a settembre in Italia hanno visto diminuire dello 0,6% le vendite al dettaglio su agosto. E con questi dati sul commercio e sulle vendite direi che ci possiamo brevemente fermare per aggiornare invece chi si sta muovendo. Ringrazio intanto per i messaggi che arrivano tra la pagina Facebook di Effettonote, il 349-238-6666. Doris da Trieste dice: bisogna che si emani al più presto una legge che punisce in modo severissimo l'omicidio di identità, che è stata una proposta che in una lettera a Mattarella ha scritto proprio Carla Cagliazzo, la donna di cui parlavamo prima. Questo omicidio di identità anche nel caso appunto le donne persone sfregiate, anche se sono uccise comunque in qualche modo. E Paolo da Belluno lo ringrazio perché dice che sono illuminata, veramente questa sarebbe la normalità, il resto che non è illuminato che è buio, e sono d'accordo che ci sono ancora tante montagne da scalare. A tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se avete acceso la radio adesso anziché puntualmente alle 21, io Roberta Giordano naturalmente ve li ricordo tra pochissimo, poi cominceremo a approfondire i vari argomenti partendo dal maltempo. Ancora i vostri messaggi possono continuare ad arrivare naturalmente per tutta la trasmissione sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che comunque è lì per voi giorno e notte, oppure al numero 349-238-6666. Tonino da Civitavecchia per esempio scrive: fermo restando sulla bestialità dell'individuo uomo che commette violenza sulle donne, il problema rimane culturale, una società con famiglie maschiliste, dice un bambino con tre fidanzatine, i genitori sorridono, la bambina con tre fidanzatini non si fa. Insomma, comunque tutte, certo, queste differenze, questi pregiudizi, queste discriminazioni comunque contribuiscono a creare una cultura di un certo tipo, di persone di serie A e persone di serie B. Adesso vi ricordo i titoli principali. La Consulta boccia i decreti della riforma Madia sulla pubblica amministrazione dicendo serve un'intesa anche con le regioni, e Renzi ribatte: la burocrazia è opprimente. L'alluvione che travolge Liguria e Piemonte è ancora emergenza, ne parleremo tra pochissimo, intanto c'è un disperso a Sciacca in Sicilia. Il Presidente del Consiglio agita lo spettro del governo tecnico a proposito del referendum, e poi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi coro di voce, una ferita per tutta la società, dice Mattarella, il Papa scrive: il Signore le vuole libere. E poi Erdogan, il presidente turco, che minaccia l'Europa dicendo: aprirò le frontiere ai migranti, mentre Berlino cerca di mediare dicendo: l'accordo sui profughi è un successo comune. Mattarella, oggi il presidente della Repubblica, era nelle zone del sisma e ha promesso: ricostruiremo tutto. Poi in il Black Friday, oggi il venerdì nero, nel senso che negli Stati Uniti da sempre fanno grandi svendite e sconti, scatta la febbre degli acquisti, anche in Italia un po' di ossigeno per il commercio. Quindi dicevamo, l'ondata di maltempo che ha investito il nord-ovest colpendo pesantemente Piemonte e Liguria, ne abbiamo parlato molto ieri, resta comunque alta l'allerta, e in Sicilia avete sentito, un allevatore di 60 anni risulta disperso a Sciacca, la sua auto è stata ritrovata nel pomeriggio in località Muciaria nell'alveo di un torrente, ancora non si sa nulla. Per quanto riguarda il Piemonte, seppure le condizioni meteorologiche man mano stanno migliorando, dopo la situazione di ieri si conta un disperso nel torinese, torrente in piena nell'Astigiano, nell'Alessandrino. Il Po e i suoi affluenti che superano il livello di pericolo a Torino e fanno paura, e in Piemonte sapete c'è la nostra inviata Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Tu eri in particolare nella zona di Alba, no, e dell'Alessandrino. Ho attraversato, diciamo, tutta la valle, gran parte della valle del Tanaro, che è uno dei punti centrali appunto di questa nuova ultima alluvione, perché è stato il Tanaro il fiume che ha esondato facendo danni e lasciando ancora isolate molte frazioni in alcuni punti e nei borghi, soprattutto quelli più lontani. Ho attraversato questa valle fino al punto della confluenza con la Bormida verso l'Alessandrino e poi verso il Po, che rappresenta un po' la grande paura di questa, in questa zona. Seguendo un po' il cammino dell'avanzata della piena, ho potuto seguire non solo, diciamo, le paure degli abitanti di questa zona, ma anche vedere intere distese di campagne trasformate quasi in un unico lago, con cascine appunto inondate, allevatori che sono spesso poi quelli che rischiano di più, come è successo anche in Sicilia, perché si preoccupano dei propri animali. Non è un allevatore, ma comunque si preoccupava dei suoi cavalli, anche l'uomo disperso in Val Chisone. Queste sono anche zone poi di coltivazioni assai pregiate, quindi bisognerà poi anche andare a vedere quali saranno i danni, se non quelli immediati, anche quelli sul lungo raggio, sulle coltivazioni. Ma poi una paura che, oltre all'immediato, è nutrita anche diciamo della consapevolezza di quello che il fiume in queste zone ha fatto in passato e può fare ancora. Tuttavia però ho incrociato anche tantissime persone consapevoli di una situazione diversa rispetto a quella del 94. Lungo il Tanaro ora gli argini in molti casi hanno retto, le barriere sono state rafforzate e stasera ancora la protezione civile, soprattutto nell'Alessandrino, in questo punto assai delicato della confluenza tra i due fiumi, ha creato barriere di sabbia proprio qui dove da pochissimo, a fine ottobre, è stato inaugurato un ponte nuovo, il ponte Maier, costruito sul posto di quello che era stato demolito perché aveva contribuito a rendere ancora più grave la devastante alluvione del 94 in cui i morti furono una settantina. Insomma, i danni sono stati tanti, l'emergenza è ancora molto forte, soprattutto in alcuni borghi, però c'è un po' ovunque la consapevolezza che poteva andare di gran lunga peggio. Infatti, dicevamo come comunque ha funzionato il coordinamento degli interventi e l'allerta. Grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta. E adesso ci spostiamo sulla Liguria. Dopo il Piemonte anche la Liguria ha chiesto lo stato di emergenza, ha chiesto lo stato di calamità e dichiarato quello di emergenza. C'è qualche ascoltatore che fa un po' le pulci su queste cose. Insomma, la situazione è quella che è, purtroppo, ne abbiamo parlato anche ieri, per il maltempo che ha colpito soprattutto in Liguria il Ponente. Nel frattempo è stato individuato e recuperato il cadavere di quel pescatore di 73 anni, Mauro Costa Guta di Lavagna, che era scomparso mercoledì sera mentre pescava alla foce dell'Entella. E il suo corpo è stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto sulla scogliera adiacente il porticciolo di Chiavari. Non ci sono ancora in Liguria le stime definitive dei danni. Una prima stima della giunta parla di un danno di almeno 100 milioni di euro, ma ci dirà naturalmente qualcosa di più fondato Giacomo Gianpredone, assessore alla protezione civile della regione Liguria, che saluto. Buonasera assessore. Buonasera a voi, eccoci. Quindi parlavo dei danni, della situazione in generale, qual è? Il tempo dovrebbe essere leggermente migliorato? Il tempo è molto migliorato, abbiamo finito la fase di allerta, stiamo facendo l'inizio della computa dei danni che durerà qualche settimana, abbiamo avuto quest'oggi la visita del capo dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio, come ha detto bene lei abbiamo emanato questa mattina in giunta la richiesta di stato di emergenza e domani avremo il punto con il Presidente del Consiglio in prefettura a Savona, credo nel pomeriggio di domani, proprio per iniziare quella fase tecnica di valutazione delle schede dei danni per dare delle risposte rispetto alle somme urgenze che i sindaci e ciò che rimane dei presidenti della provincia stanno mettendo in campo in queste ore per dare le risposte a un territorio molto vasto perché va dalla provincia di Imperia fino all'entroterra di Savona. Senta, gli sfollati sono potuti rientrare o è sempre la situazione più o meno quella che era ieri? No, è una situazione assolutamente in divenire positivo, nel senso che ieri quasi 2/3 degli sfollati erano dovuti a cause precauzionali perché hanno delle abitazioni insistenti sui corsi d'acqua che in quel momento si stavano ingrossando o comunque stavano avendo delle esondazioni, quindi stanno via via rientrando. Ne abbiamo ancora qualcuno isolato più che sfollato, nel senso che hanno tutti i servizi essenziali nelle loro frazioni, ma ci sono ancora dei problemi per raggiungere quelle frazioni con la viabilità. Parlo dell'interno di Imperia e dell'interno di Savona, ma sono situazioni che stanno andando via via risolvendosi. Bene. Fortunatamente non abbiamo delle case completamente distrutte rispetto ovviamente agli episodi che si sono venuti a creare. Benissimo, assessore Gianpredone, quindi mi sembra che il coordinamento sull'emergenza, il controllo della situazione di emergenza abbia funzionato molto bene. Adesso, come diceva, domani poi farete il computo più o meno definitivo dell'ammontare dei danni di quello che c'è stato. L'importante è sì. È così, no, si tratta di fare ovviamente la valutazione dei danni. Il dato certo è che in una situazione molto grave, anche con quantitativi record di acqua, abbiamo raggiunto dei picchi di 600 mm nelle 24 ore, già, che pensate è un record secondo solo all'alluvione del 1970 avvenuta a Genova. Abbiamo al di là del disperso, che credo sia però avvenuto per cause diverse rispetto a esondazioni o situazioni legate alla protezione civile, zero feriti rispetto ovviamente a quello che è accaduto, che poteva essere veramente una situazione molto molto delicata. Quindi segno di un buon comportamento di protezione civile sia istituzionale ma anche da parte dei cittadini nel rispettare le allerte e i codici di autoprotezione. Meno male, un grosso passo avanti fatto almeno su questo dall'Italia. Grazie Giacomo Gianpredone. Grazie, ricordo assessore alla protezione civile della regione Liguria, e buon lavoro. Grazie. Grazie. è diventata una sfida largamente aberrante, largamente aberrante. Io per esempio non ritengo affatto che si debba considerare uno dei motivi e uno degli obiettivi della riforma tagliare il numero dei parlamentari. L'obiettivo della riforma è avere un Senato rappresentativo dei poteri territoriali, l'obiettivo della riforma è avere un Senato per questo stesso motivo più snello, ma l'obiettivo non è tagliare, come si dice un po' assurdamente, le poltrone dei parlamentari, perché sennò qui arriviamo a delle conseguenze molto pericolose con questo tipo di... Io non condivido quelle motivazioni. Toni aberranti, ha detto Napolitano all'inizio di questa settimana. In effetti è una campagna elettorale, diciamo, molto infuocata, una battaglia senza esclusione di colpi e di insulti. Di Battista, del Movimento 5 Stelle, ha replicato dicendo che Napolitano è aberrante. Sentiamo. Di aberrante c'è soltanto la sua vita politica, la sua vita politica. E Napolitano è il massimo responsabile dei disastri dell'Italia, è sempre stato schiavo dell'imperialismo sovietico quando inneggiava i carri armati sovietici nel 1956 che trucidavano i giovani a Budapest. Schiavo dell'imperialismo oggi, delle multinazionali della finanza e dei gruppi bancari che sono loro i mandanti delle riforme costituzionali. Insomma, ne abbiamo sentite di tutte in questa campagna referendaria che ancora non è finita. Scrofa ferita, serial killer, accozzaglia. Oggi Renzi ha detto, insomma, l'interesse di tutti cercare di abbassare i toni in questi ultimi giorni. Sentiamolo. Da parte nostra in questi ultimi 8 giorni di campagna elettorale, 7 giorni di campagna elettorale, l'interesse è quello di abbassare totalmente i toni dello scontro e di entrare nel merito, anche perché banalmente abbiamo tutto da guadagnarci, è giusto, ma anche perché abbiamo tutto da guadagnarci. Appunto, Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, buonasera cara Barbara. Buonasera. Ecco, anche perché, per esempio, diceva la Presidente della Camera Boldrini, una campagna pessima allontana gli elettori, è possibile che un po' di disgusto qualcuno lo abbia provato in questi giorni? E dice addirittura Renzi, vedevo adesso un'agenzia, c'è un sacco di gente che non ne può più di parlare di referendum, e infatti diciamo anche noi siamo abbastanza estenuate, o no Barbara, come ti senti? Beh sì, certamente ormai, ma come sempre in tutte le, devo dire che in generale quando c'è una campagna elettorale, in questo caso una campagna referendaria, gli ultimi giorni sono sempre quelli più duri, perché gli attacchi si proliferano, gli attacchi da una parte e dall'altra, e soprattutto tutti non vedono l'ora, soprattutto immagino gli elettori, di arrivare al punto, alla fine, in modo che si cominci a parlare anche di qualcos'altro. Tra l'altro avverto che la prossima settimana, insomma, ci daremo dentro, come si dice anche qui, effetto note, con delle schede neutre, nel senso ci saranno le motivazioni del sì e del no e ognuno si farà la propria idea. Barbara, tra l'altro, a parte le varie posizioni, no? Berlusconi in questi giorni ha detto Mediaset, i dirigenti di Mediaset voteranno sì perché hanno paura di ritorsioni. Dice, ma io sono per il no. Poi si è un po' ritrattato il giorno dopo. Secondo te è stato un tentativo di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, o non sa neanche lui esattamente che cosa votare in una posizione scomoda? Come lo interpreti tu? Berlusconi deve tenere come al solito insieme troppe cose. Da un lato ha una posizione che ha espresso con Falonieri, che è, oltre a essere il presidente di Mediaset, un suo vecchio e grande amico, che si è schierato apertamente per il sì. Dall'altro ha il problema che comunque deve tenere forte il legame, almeno per il momento, con i suoi alleati, cioè con la Lega di Matteo Salvini in particolare, che è schierata fortemente per il no, e quindi Berlusconi si trova nel mezzo. Ma direi che la sintesi l'ha fatta l'altra sera quando ha detto apriamo subito dopo il 4, quando ci sarà la vittoria del no, apriamo pronta un tavolo anche con Renzi. Sentiamolo subito. Pur essendo al limite della guerra civile l'un contro l'altro, certo, De Gasperi e Togliatti riuscirono a trovare un compromesso alto e nobile, e la Costituzione fu votata dall'80% dei padri costituenti. Noi dobbiamo necessariamente cercare la stessa cosa, perché la Costituzione è la legge delle leggi. Assolutamente indispensabile sedersi ad un tavolo per una nuova riforma costituzionale e per un cambiamento della legge elettorale. Ecco, l'abbiamo sentito Barbara, quindi un tavolo comune, anche se Renzi ha detto si accomodi, ma troverà Grillo e Salvini, non dice, non sì, D'Alema. Sì, sì. Vabbè, ma è chiaro, qui ognuno gioca una parte in commedia e Berlusconi vuole riacquistare una centralità che ha perduto, perché appunto Forza Italia non è più il principale partito del centro-destra, o comunque è stata raggiunta dalla Lega, quindi non ha più quella forza di catalizzare su di sé e anche di decidere per il resto della coalizione. E quindi cerca comunque di posizionarsi per trovare una strada. Allo stesso tempo Renzi non ha alcuna intenzione, come dire, di favorire questa apertura, cioè di accondiscendere a questa strategia, perché l'obiettivo di Renzi è, qualora, almeno quello che si ritiene, quello che ritengono gli osservatori, qualora dovesse prevalere il no, Renzi certamente lascerà, come si dice, il cerino a quella che ha definito l'accozzaglia, cioè difficilmente, insomma, lui si capisce chiaramente, lui si dimetterà. Barbara, proprio abbiamo ancora veramente poco meno di un minuto per una battuta. L'Economist, autorevole settimanale britannico, si è spaccato a sua volta, cioè non solo c'è un popolo confuso giustamente in Italia, non solo ci sono schieramenti politici, ma anche l'Economist ieri aveva detto è meglio che voti no all'Italia perché non sono queste le riforme di cui ha bisogno, oggi ha ritrattato in una battuta che come l'hai letta questa che cosa? Abbiamo contagiato anche l'Economist. Anche loro non sanno più veramente cosa sia meglio. Ma sì, speriamo di farci un'idea più precisa noi la prossima settimana. Va bene. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao, buon fine settimana. Voi continuate con i vostri messaggi. 349-238-6666. Pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo un momento. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie ve ne ho raccontate finora, siete al posto giusto, al momento giusto, se state ascoltando Effetto Notte sì, e con voi la giusta conduttrice Roberta Giordano. Andiamo avanti naturalmente ancora con altri temi, abbiamo parlato lungamente del maltempo e poi ci siamo soffermati anche sul punto politico, come sempre il venerdì qui Effetto Notte, della politica della settimana. Adesso c'è tra poco lo spazio europeo e voi continuate pure con i vostri messaggi. C'è per esempio questo ascoltatore, dicevo sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dice c'era un ascoltatore, vediamo se ritrovo il suo messaggio, che citava questa notizia dei milioni saltati nella manovra per l'emergenza sanitaria all'Ilva di Taranto, e poi ha risposto il sottosegretario De Vincenti, che dice in realtà è una strumentalizzazione perché il governo in realtà è impegnato con a partire dagli 800 milioni del contratto istituzionale di sviluppo per la città. Questa è la risposta che dà De Vincenti, poi vedremo, ma la polemica si è aperta su questa vicenda. Ora vi ricordo le notizie più importanti e poi il resto dei temi. Oggi è giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente Mattarella parla di una ferita all'intera società, il Papa scrive Dio vuole le donne libere, il presidente della Camera Boldrini pubblica i messaggi e i nomi di chi la insulta in rete. Ma il tempo resta all'allerta anche se il tempo sta migliorando, danni pesanti in Piemonte e Liguria, sotto l'acqua anche Calabria e Sicilia. Pubblica amministrazione, la consulta boccia una parte della riforma Madia poiché viola l'autonomia delle regioni. La manovra economica, la Camera vota la fiducia, saltano i 50 milioni per l'emergenza sanitaria di Taranto. Tensione tra Unione Europea e Turchia, Erdogan minaccia, aprirò le frontiere ai migranti, Berlino però cerca di mediare dicendo l'accordo sui profughi è un successo comune. Black Friday scatta la febbre degli acquisti, anche in Italia ossigeno per il commercio. Europa 24 notte. L'Europa non è solo leggi e bilanci, anche la cultura conta per creare lo spirito comune che fortifica la nostra identità, ma i media rappresentano anche un'industria fondamentale, così racconta Marta Cagnola il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Tutta l'industria dell'audiovisivo non soltanto rappresenta un comparto fondamentale dell'economia reale che dà da lavorare a milioni di persone, e a tanti anche in Italia, nel nostro paese, penso a Cinecittà, ma penso anche a tutte le altre realizzazioni che avvengono in Italia. ma rappresenta anche uno strumento per difendere la nostra identità culturale di fronte anche all'invasione di produzione americana. Noi abbiamo il dovere di difendere non soltanto le nostre lingue, ma anche il nostro modello culturale, la nostra società, ma anche la capacità di integrare, la capacità di difendere i valori fondanti dell'Unione Europea. Insomma, l'Europa non è soltanto la banca centrale, non è soltanto l'euro, non è soltanto la burocrazia, ma è anche cinema, cultura, valori, identità. Come lavora l'Europa sotto questo punto di vista? Ci sono stati dei grossi cambiamenti in questi anni? L'Europa potrebbe fare molto di più, investire molto di più da questo punto di vista, non soltanto dal punto economicamente, ma anche sostenendo i valori che rappresenta l'industria culturale, perché l'industria culturale è fondamentale anche per lo sviluppo del turismo, che è un altro comparto non indifferente per noi italiani, ma per tutta l'Unione Europea. Ricordiamoci, siamo la prima destinazione al mondo, ma non dobbiamo perdere questo primato. Quindi, sfruttando anche questo settore, possiamo incrementare il numero delle presenze, ma serve una strategia più complessiva. Cioè, credo che l'industria culturale possa essere promossa e sostenuta molto di più. Già servirebbe una politica industriale europea più forte rispetto a quella che abbiamo, e l'industria culturale, ripeto, è parte importante, integrante di questo settore. Senza economia reale non si cresce, senza economia reale non si sconfigge la crisi. Non possiamo pensare di lavorare soltanto puntando sulla riduzione del debito pubblico, sarebbe un gravissimo errore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Di nuovo insieme, adesso c'è la viabilità, aggiorniamo chi sta viaggiando. Dice Luigi, sulle centrali nucleari francesi non c'è proprio nulla da dire, veramente Luigi, ne abbiamo parlato mi pare 2 giorni fa, anche se brevemente. Adesso viabilità e ci troviamo tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, notizie che vi ricordo brevemente in pochi istanti, visto che ci sono ancora temi da affrontare. E, appunto, il maltempo, ne abbiamo parlato per quanto riguarda Liguria e Piemonte, ma si sta spostando anche verso sud, diciamo mezza Italia più o meno è sotto l'acqua, l'allerta rossa resta. E poi la giornata internazionale oggi contro la violenza sulle donne, il presidente Mattarella che parla di una ferita all'intera società, Renzi che dice quello della lotta contro la violenza sulle donne è un tema fondamentale, imprescindibile, culturale, sociale e politico. Poi la Consulta che boccia una parte della riforma sulla pubblica amministrazione della ministra Madia poiché viola l'autonomia delle regioni. La manovra economica, la Camera vota la fiducia, saltano 50 milioni per l'emergenza sanitaria di Taranto e scoppia la polemica. Tensione tra Unione Europea e Turchia, Erdogan minaccia l'Europa, dice aprirò le frontiere ai migranti, Berlino cerca di mediare, dice l'accordo sui profughi è un successo comune. E adesso questo invece il tema, ritorniamo, abbiamo parlato già molto all'inizio, ma torniamo sulla giornata internazionale della violenza contro le donne, perché vi do alcuni dati di Eures. 116 donne uccise nei primi mesi del 2016, più di una ogni 3 giorni, e nell'ultimo mese, solo nell'ultimo mese, per non calcolare tutto l'anno, sono ben 18 i bambini rimasti orfani di madre nell'ultimo mese. E la gran parte dei femminicidi avviene al nord, il 53,4%, la Lombardia ha questo triste record. È cresciuta la consapevolezza negli ultimi anni grazie al ruolo insostituibile dei centri antiviolenza, che comunque hanno sempre bisogno di finanziamenti, dove si trova conforto nell'anonimato. 10.000 persone dal 2001 oggi si sono rivolte a Milano alla cooperativa sociale Cerchi d'Acqua, si chiama, storie di donne maltrattate, storie drammaticamente simili, così ha raccontato ad Anna Rita D'Ambrosio la presidente Graziella Mazzoli. C'è una modalità comune, nel senso che la donna da prima non si rende conto di essere in una situazione di violenza, soprattutto nella violenza psicologica, mentre con la violenza fisica chiaramente, dovendo magari ricorrere a un pronto soccorso, naturalmente la cosa emerge molto più velocemente. Riguarda tutti, donne che subiscono violenza sono, secondo i nostri dati, occupate al 65%, e di cui il 63% è con professionalità medio-alta, per cui anche lo stereotipo del degrado e della situazione di disagio e di miseria, diciamo, con vizi tipo alcolismo che sicuramente peggiorano certe situazioni, ma non è detto che questo, per esempio gli uomini che agiscono la violenza, che sono di nazionalità italiana per l'81%, il 70% è di professionalità medio-alta, quindi la trasversalità del fenomeno. La trasversalità del fenomeno, per l'appunto, in tutta Italia, direi ad ogni latitudine in realtà nel mondo, non c'è un ceto sociale particolare, non ci sono delle categorie particolari, è proprio trasversale. A sud le donne spesso non denunciano il compagno perché da lui dipendono anche economicamente e ridarle dignità, autonomia è fondamentale. Da questa esigenza, Casal di Principe in Campania, nel Casertano, terra dei fuochi, terra di Camorra, sono nate le ghiottonerie di Casa Lorena. Sono dolci, marmellate, prodotte dalle donne che si sono rivolte al centro della cooperativa Eva. Si lavora in un bene confiscato alla Camorra. Sentiamo la responsabile del progetto, si chiama Daniela Daddio. Abbiamo pensato questo progetto 3 anni fa proprio dalla lunga esperienza nella gestione di centri antiviolenza, che ci ha fatto capire quanto poi il nodo fondamentale della non uscita fondamentale dalla violenza sia la mancanza di lavoro, la mancanza di autonomia economica. Per cui abbiamo cercato di, attraverso un finanziamento, mettere su questo laboratorio di cucina e di produzione di confetture per ridare alle donne la possibilità di sentirsi nuovamente in diritto di esistere, in diritto di vivere, in diritto di esserci. Quante donne lavorano adesso alle ghiottonerie di Casa Lorena? Attualmente il gruppo è composto da 6 donne, ma in questi anni ha dato lavoro a circa 30-40 donne che si sono susseguite nel corso del tempo. Facciamo, ripeto, produzione di confetture e facciamo servizio catering. Il nostro sito è quello di cooperativaeva.com oppure www.leghiottonieriedicasalorena.com. È un sito che appunto permette a tutti di visionare i nostri prodotti, di visionare i nostri eventi, conoscerci meglio e poter acquistare i nostri prodotti e in occasione del Natale anche strenne natalizie. Insomma, belle iniziative, estremamente meritevoli, però chiaramente, come dice Renzi, quello della lotta contro la violenza sulle donne è un tema fondamentale, imprescindibile, culturale, sociale e politico. La politica se ne deve far carico, le istituzioni, le forze dell'ordine, tutta la società, gli uomini con una loro riflessione su se stessi. E vi do altri dati. Secondo le stime OMS diffuse in occasione appunto della giornata di oggi, la violenza di genere è una delle prime cause di morte o invalidità permanente delle donne nel mondo. La violenza contro le donne è un crimine che in Italia, sempre secondo l'OMS, non viene denunciato in oltre il 90% dei casi. Quindi le storie che sentite sono soltanto la punta dell'iceberg. E io chiedo sempre, e non mi stanco di chiederlo, cosa accadrebbe se a livello di istituzione, di politica, di forza dell'ordine, eccetera, tutto questo accadesse al contrario, cioè se fossero le donne che ogni 2-3 giorni ammazzassero un uomo. Direi a questo punto di risentire, allora, visto che ha fatto particolarmente impressione, è stata particolarmente toccante l'intervento e la testimonianza di oggi di Carla Caiazzo, ve lo ricordo, appunto, la donna a cui l'ex fidanzato ha dato fuoco, tra l'altro mentre era incinta di 8 mesi, sfregiandola. Sentiamo il suo intervento oggi in questo incontro a Napoli. Comunque è difficile perché alla fine è una cosa che dovrò superare io, per quanto posso avere gli interventi e potrò migliorare il mio aspetto estetico, è una cosa interiore che io dovrò superare, nonostante sto facendo dei sacrifici enormi tutti i giorni, perché guardarsi allo specchio e non riconoscersi è la cosa più difficile da superare, da affrontare ogni mattina. E lei stessa lamenta il fatto che un supporto da parte delle istituzioni, anche dal punto di vista economico, non c'è. Ora lei deve farsi una serie di interventi che sono considerati interventi estetici, quindi non sono mutuabili e costano. Sentiamo. Non ho avuto il supporto di nessuno, cioè né dalla regione né da nessun ente che ha questa competenza, assolutamente, a mie spese, però i costi sono abbastanza alti, quindi sto facendo anche questo sacrificio, questo sforzo. Quindi, è vero, sono cicatrici cancellabili e forse mai potranno andare via, però se avessi un supporto economico forse per me sarebbe più semplice superare questa cosa. Io ho bisogno di un sostegno economico, davvero, perché secondo me inverosimile che devono organizzare una cena di beneficenza ai miei concittadini e chi sta a capo non prende un'iniziativa del genere. È veramente abbastanza sconfortante. Vediamo adesso se invece ci dà delle buone notizie da un altro, da qualsiasi, diciamo, da tutto un altro punto di vista. Il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, soprattutto per le regioni più colpite. Paolo, portatore sano di sole, ce lo porti il sole? Ma sì, dai, ho buone notizie davvero. Buonasera Roberta. Ciao. Nel senso, almeno in termini di precipitazione andiamo verso un netto miglioramento. Nel weekend smetterà di piovere, rischiamo ancora solo qualche piovasco domani sulle regioni ioniche, ma in forma più attenuata, anche se al momento proprio sullo Ionio sta ancora piovendo parecchio, in particolare in Calabria. Hai sentito anche in Calabria e in Sicilia, sì, oggi grossissimi problemi. Quindi da un punto di vista meteorologico si va, si ripete, verso un netto miglioramento. Ora semmai il problema sono i fiumi, la piena del Po che attraverserà tutta la Valpadana, osservato speciale, però insomma sembra che il tutto possa passare senza grosse conseguenze, quantomeno ce l'auguriamo. Per il resto niente da segnalarti, qualche nebbia domenica in pianura padana e settimana prossima l'arrivo di un po' di freddo, nulla di eccezionale, però temperature che cominciano a avvisarci che si avvicina l'inverno, ecco. Ma l'inverno in fondo un po' già lo sentiamo, è vero che ci sono temperature, diciamo, abbastanza miti, poi io sono molto particolare perché finché non sono 35 gradi per me è inverno. Non sei contenta, esatto. Beh, guarda, in realtà abbiamo avuto un autunno che ha fatto l'autunno. Ora questo episodio alluvionale, per quanto violento, purtroppo rientra in una serie di appunto episodi violenti che tipici negli ultimi anni interessano l'Italia. Però guarda, però l'autunno ha fatto l'autunno, ora ci attendiamo un inverno che dovrebbe far l'inverno. Ognuno esatto. Il suo ruolo. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon ringrazio voi, tutti. I vostri messaggi, in particolare Maria Grazia, uno degli ultimi messaggi, anche Luca che dice arrivo adesso, di cosa avete parlato? Sono stato al cellulare finora, male Luca, mi raccomando da lunedì ricomincio a sentire puntualmente, ci sentiamo tra poco.